Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Ödön von Horvath, traduzione di Bruno Maffi. Alla ricerca degli ideali del genere umano. Il vino del parroco sa di sole, ma la torta sa di incenso. Siamo seduti nell'angolo. Mi ha fatto fare il giro della casa. La sua cuoca è grassa. Deve fare molto bene da mangiare. Io non mangio molto, dice improvvisamente il parroco. Che abbia indovinato il mio pensiero? Ma in compenso bevo, aggiunge ridendo. Mi sforzo di sorridere. Il vino è buono e non è buono. Parlo e mi interrompo, imbarazzato. Perché? So che cosa la tormenta, dice il sacerdote. Pensa ai bambini seduti alla finestra intenti a dipingere le bambole e che non mi salutano. Sì, anche ai bambini penso. È sorpreso che indovini i suoi pensieri? Non è difficile per me. Anche il maestro non vede che quei bambini. E appena siamo insieme ne parliamo. Con me si può parlare tranquillamente. Non sono di quei preti che non ascoltano o che perdono le staffe. Io la penso come Sant'Ignazio. Entro con ogni uomo dalla sua porta per poterlo riportare fuori dalla mia. Abbozzo un sorriso e taccio. Lui vuota il bicchiere. Continuo a guardarlo, ansioso. La ragione della miseria, riprende, non sta nel fatto che a me piace il vino, ma nel fatto che la segheria non lavora più. Il maestro pensa che lo sviluppo vertiginoso della tecnica imponga nuovi rapporti di produzione e un controllo aggiornato della proprietà. Ha ragione. Ma perché mi guarda con quell'aria stupita? Posso parlare a cuore aperto? La prego. Sto pensando che la Chiesa è sempre dalla parte dei ricchi. È vero, ma perché vi è obbligata? Obbligata? Può citarmi uno stato dove i ricchi non governino? Essere ricco non significa necessariamente avere del denaro. E quando non ci saranno più azionisti delle segherie, altri ricchi governeranno. Non è necessario possedere delle azioni per essere ricchi. Ci saranno sempre dei valori e pochi uomini ne possederanno sempre più di tutti gli altri. Più stellette al colletto, più galloni alle maniche, più nastrini sul petto, visibili o invisibili, poiché ci saranno sempre ricchi e poveri, come ci sono gli sciocchi e i furbi. E, caro professore, disgraziatamente la Chiesa non ha il potere di stabilire come uno Stato debba essere retto. Al contrario, è suo dovere essere sempre dalla parte dello Stato che, purtroppo, sarà sempre governato da ricchi. Suo dovere? L'uomo, essendo per natura un animale socievole, è destinato a contrarre dei vincoli nella famiglia, nella comunità, nello Stato. Lo Stato è un'istituzione puramente umana, il cui scopo deve essere, nella misura del possibile, la realizzazione della felicità terrena. È una necessità naturale, voluta da Dio, e obbedirgli è dovere di coscienza. Non vorrà tuttavia sostenere che, per esempio, lo Stato attuale realizzi nella misura del possibile la felicità terrena. Affatto, poiché la società umana è basata sull'egoismo, l'impostura e la forza bruta. Come dice Pascal, desideriamo la verità e non troviamo in noi che incertezza. Cerchiamo la felicità e non troviamo che miseria e morte. La stupisce sentire un semplice curato di campagna citare Pascal. Che non sono un semplice curato di campagna, sono qui solo per breve tempo, come si dice, per misure disciplinari. Sì, sorride. Rari sono i santi che non hanno mai peccato, rari i savi che non hanno mai commesso sciocchezze, e senza le piccole sciocchezze della vita nessuno di noi sarebbe al mondo. Sorride, ma io non sorrido con lui. Vuota un altro bicchiere. Io domando: se è vero che l'ordinamento statale è voluto da Dio, mi interrompe, errore! Non l'ordinamento statale, ma lo Stato è una necessità naturale e perciò voluta da Dio. Ma è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Dio ha creato la natura. Dunque è voluto da Dio tutto ciò che è necessità naturale. Ma le conseguenze della creazione della natura, cioè nel caso specifico l'ordinamento dello Stato, sono un prodotto della libera volontà umana. Quindi soltanto lo Stato è voluto da Dio, non il suo particolare ordinamento. E quando uno Stato si sfascia? Uno Stato non si sfascia mai. Tutt'al più, la sua struttura sociale si sbriciola per lasciare il posto a un'altra. Lo Stato in se stesso rimane, anche se il popolo che lo costituisce muore, perché allora un altro popolo ne prende il posto. E dunque il crollo di un ordinamento statale non è una necessità di natura. Sorride. A volte è persino voluta da Dio. E perché allora quando un certo ordine sociale crolla, la Chiesa prende sempre la parte dei ricchi? In altri termini, per ritornare al presente, perché la Chiesa si mette sempre dalla parte degli azionisti della segheria, non da quella dei bimbi seduti alla finestra? Perché i ricchi vincono sempre. Non posso dominare il mio sdegno. Bella morale! Rimane impassibile. Ragionare bene è il principio della morale. E vuota un altro bicchiere. Sì, i ricchi vinceranno sempre, perché sono i più brutali, i più abietti, i più spregiudicati. Non dice forse la Bibbia che sarà più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno dei cieli? E la Chiesa passerà per la cruna di un ago? No, risponde e sorride di nuovo. Non sarebbe neppure possibile, poiché la Chiesa è appunto la cruna dell'ago. Questo parroco è dannatamente furbo, penso, ma non ha ragione. No, non ha ragione. E ad alta voce. Così la Chiesa serve i ricchi e non pensa a combattere per i poveri. Combatte anche per i poveri, mi interrompe, ma su un altro fronte. Il fronte celeste. Anche lì si può morire. Per esempio, Gesù Cristo. Sì, certo, ma era un Dio. E dopo di lui mi offre un bicchiere e guarda pensoso davanti a sé. È bene, disse, che la Chiesa attraversi in molti luoghi giorni difficili. Bene per la Chiesa. Possibile, risposi seccamente. E notai che ero eccitato. Ma torniamo a quei bambini delle finestre. Passando per la strada, lei ha detto: non mi salutano, sono stati montati contro di me. Lei è una persona intelligente, sa benissimo che quei bambini non sono stati montati da nessuno, ma che semplicemente non hanno da mangiare. Mi guarda stupito. Ho detto che sono stati montati, risponde lentamente, perché non credono più in Dio. Ma come può pretendere da loro una cosa simile? Dio cammina in ogni strada. E come può passare, vederli e non aiutarli? Tace. Sorseggia il suo vino. Poi mi guarda con tanto d'occhi. Dio è ciò che c'è di più terribile al mondo. Lo fisso. Ho capito bene? Ciò che c'è di più terribile al mondo? Si alza, va alla finestra, guarda giù nel cimitero. Sento che dice: Dio castiga. Che Dio misericordioso, penso, che castiga i bambini poveri. Ora cammina su e giù per la stanza. Non si deve dimenticare Dio, dice, anche quando non si sa perché ci castiga. Non avessimo mai avuto il libero arbitrio. Allude al peccato originale? Sì. Non credo al peccato originale. Si ferma davanti a me. Allora non crede neanche in Dio? No, non credo in Dio. C'è silenzio. Sono il primo a romperlo, poiché devo parlare ora. Io insegno storia, dico, e so che anche prima della nascita di Cristo esisteva un mondo, il mondo antico, l'Ellade, un mondo senza peccato originale. Credo che si sbagli, mi interrompe. Prende un libro da una scansia, lo sfoglia. dal momento che insegna storia. Non ho bisogno di raccontarle chi è stato il primo filosofo greco, voglio dire il più antico. Talete di Mileto, giusto. Ma è rimasto un personaggio quasi leggendario. Non sappiamo nulla di preciso di lui. Il primo documento scritto della filosofia greca che io conosca è di Anassimandro. Anche lui nato a Mileto nel 610, morto nel 547 avanti Cristo, non è che una frase. Si avvicina alla finestra, poiché comincia a imbrunire, e legge: le cose torneranno necessariamente là da dove son venute, poiché devono espiare la colpa della loro esistenza secondo l'ordine del tempo. Il centurione romano. Siamo al campo già da 4 giorni. Ieri il sergente ha spiegato ai ragazzi il meccanismo del fucile, come si carica, come si pulisce. Oggi puliscono tutto il giorno, domani tireranno. I soldati di legno aspettano già di essere colpiti. I ragazzi stanno benissimo, meno bene il sergente. In 4 giorni è invecchiato di 10 anni. Fra 4 sembrerà più vecchio di quel che è. Inoltre ha preso una storta e zoppica. Ma nasconde il dolore, non si è tradito che con me. Ieri, prima di addormentarsi, mi ha detto che non sarebbe stato scontento di riprendere a giocare alle bocce o alle carte, a dormire in un letto vero, a pacioccarsi una robusta contadina, insomma, di essere a casa. Poi ha chiuso gli occhi e ha cominciato a russare. Sognava che era generale e che aveva vinto una battaglia. Il Kaiser si era tolto tutte le decorazioni e gliele aveva puntate sul petto e anche sulla schiena. E l'imperatrice gli aveva baciato i piedi. Che cosa può voler dire? Mi ha chiesto appena sveglio. Probabilmente ha sognato ciò che vorrebbe veder realizzato, gli ho risposto. Mi ha detto che mai in vita sua aveva desiderato che un'imperatrice gli baciasse i piedi. Lo scriverò a mia moglie, ha soggiunto. Lei ha il libro dei sogni e guarderà che cosa significa generale, Kaiser, decorazioni, battaglia, petto e schiena. Mentre scriveva, davanti alla nostra tenda apparve agitatissimo un ragazzo. Era L. «Che c'è?» «Sono stato derubato». «Derubato?» «Sì, della macchina fotografica, signor professore». Era fuori di sé. Il sergente mi guardò. «Che fare?» diceva il suo sguardo. «Intanto formiamo le file», risposi, poiché non mi veniva in mente nulla di meglio. Il sergente approvò soddisfatto, corse zoppicando fino al pennone e ruggì come un vecchio cervo: «Formare le file!» Io mi volsi a L. «Sospetti qualcuno?» «No». «Formate le file», li interrogai. Nessuno sapeva nulla. Andai col sergente nella tenda dove L dormiva. Il suo sacco era proprio davanti all'entrata, a sinistra. Non trovammo niente. «Escludo», dissi al sergente, «che il ladro sia uno dei ragazzi, poiché allora ci sarebbero stati dei furti anche durante l'anno scolastico. Credo piuttosto che le sentinelle non abbiano fatto bene il loro dovere e che i ladruncoli del paese siano entrati nel campo». Il sergente mi diede ragione e decidemmo di sorvegliare le sentinelle la notte successiva. Ma come? A 100 metri circa dal campo c'era un fienile. Decidemmo di nasconderci là e di sorvegliare le sentinelle. Il sergente avrebbe vegliato dalle 9 all'1 del mattino e io dall'1 alle 6. Dopo cena uscimmo furtivamente dal campo, nessuno ci vide. Io mi preparai una cuccetta nel fieno. All'1 il sergente mi sveglia. «Finora niente da segnalare», mi dice. Scendo dal fienile e mi apposto all'ombra di una capanna. «All'ombra?» «Sì, perché è luna piena». «Una notte magnifica. Vedo tutto il campo e riconosco le sentinelle. Stanno per smontare. Sono immobili o fanno qualche passo avanti e indietro, a est, a ovest, a nord, a sud, una a ogni punto cardinale. Montano la guardia alle loro macchine fotografiche. Ed ecco che mi torna alla memoria il quadro appeso in casa del parroco e in casa dei miei genitori. Le ore passano. Insegno storia e geografia. Devo spiegare la forma della terra e raccontarne la storia. La terra è sempre rotonda, ma le storie sono divenute quadrate. Ora sono seduto qui e non posso fumare perché sorveglio le sentinelle. È proprio vero che la mia professione non mi dà più nessuna gioia. Perché quel quadro mi è ritornato alla memoria? Per il crocifisso? No. Per la madre? Neppure. A un tratto capisco. Per il guerriero in elmo e corazza, per il centurione romano. Che cosa aveva fatto? Aveva presieduto alla crocefissione di un ebreo. E quando l'ebreo era morto aveva detto: «In verità così non muore nessun uomo». Dunque aveva riconosciuto Dio. E che cosa fece dopo? Che conseguenze ne trasse? Rimase tranquillamente ai piedi della croce. Un fulmine solcò la notte, la terra tremò, la tenda nel tempio si strappò ed egli non si mosse. Riconobbe il nuovo Dio mentre moriva sulla croce e capì che il mondo al quale egli stesso apparteneva era condannato a morte. E dopo? È morto in qualche guerra? Ha capito che moriva per una causa vana? La sua professione gli dava ancora gioia? È arrivato a tarda età, è stato messo in pensione, è vissuto a Roma o in qualche parte della zona di frontiera dove la vita costava meno. Forse aveva una casetta e la mattina la cuoca gli raccontava che nuovi barbari erano apparsi oltre le frontiere, dei nuovi barbari, dei popoli nuovi. Si armano, aspettano. E il centurione romano sapeva che i barbari avrebbero distrutto tutto. Ma la cosa non lo toccava. Per lui era già tutto distrutto. Viveva la sua tranquilla vita di pensionato. Aveva capito. Il grande impero romano. Il letame. La luna pende ora proprio sopra le tende. Devono essere circa le 2. E io penso, a quest'ora i caffè sono ancora pieni. Che cosa farà in questo momento Giulio Cesare? Accenderà la sua testa da morto finché il diavolo non se lo porti. È strano, credo nel diavolo e non in Dio. Ma davvero non ci credo? Sì, invece lo so. Non voglio credere in lui. No. Non voglio. È un decreto del mio libero arbitrio. La sola libertà che mi rimanga. Credere o non credere, a volontà. Ben inteso, ufficialmente far finta di... Secondo i casi, a volte sì, a volte no. Che cosa diceva il parroco? La professione del prete consiste nel preparare l'uomo alla morte, poiché quando l'uomo non ha più paura della morte, la vita diventa più facile. E non ne è stufo. In questa vita di miseria e di contraddizioni, solo la grazia divina e la fede nella rivelazione possono salvarci. Chiacchiere, siamo castigati e non ne sappiamo la ragione. Chiedilo un po' ai governanti. E che cosa diceva ancora? Dio è ciò che vi è di più terribile al mondo. Questo è giusto. Dolci erano i pensieri che mi passavano per la mente. Venivano dal cervello, si vestivano di sentimento e danzavano, sfiorandosi appena. Uno splendido ballo, una società eletta. Le coppie girano al lume della luna. La viltà con la virtù, la menzogna con la giustizia, la bassezza con la forza, l'astuzia col coraggio. Soltanto la ragione non partecipa al ballo. Si è ubriacata, a nausea, e singhiozza girando su se stessa. Sono stupida, poi vomita e le altre coppie ci ballano sopra. Ascolto la musica, è una cantilena dal titolo L'individuo è merda. Raggruppate per lingua, razza, nazionalità, le folle stanno l'una accanto all'altra e si studiano chi è la più grande. Puzzano talmente che ognuno deve turarsi il naso. Merda, nient'altro che merda. servitevene come letame, concimate la terra perché vi nasca qualcosa, non dei fiori, ma del pane. Ma non adoratevi, non adorate il letame che avete mangiato. ZN Stavo per dimenticare la mia consegna. Sedere all'ombra del fienile, non fumare, sorvegliare le sentinelle. Guardo verso giù, montano la guardia. A est, a ovest, a nord, a sud. Tutto a posto. Ma, attenti, da qualche parte sembra che qualcosa accada. Che cosa? A nord la sentinella parla con qualcuno. Ma chi è la sentinella? È Zeta. Con chi parla dunque? O è l'ombra di un abete? No, no. Non è un'ombra, è una forma umana. Ecco che la luna la illumina. È un ragazzo. Un ragazzo che non è dei nostri. Che succede? Si direbbe che consegni qualche cosa a Zeta e scompaia. Zeta rimane immobile, come pietrificato. Sta in ascolto? Si guarda prudentemente intorno. Poi tira fuori di tasca una lettera. Ah, gli hanno dato una lettera! Strappa la busta e legge al chiaro di luna. La ripone. Chi può scrivere a Zeta? La mattina il sergente mi chiede se non ho notato nulla di sospetto. Rispondo che non ho notato nulla e che le sentinelle hanno fatto il loro dovere. Non parlo della lettera, poiché ignoro se abbia rapporto col furto della macchina fotografica. Voglio far luce su questo punto, senza attirare i sospetti di Zeta. Se potessi leggere quella lettera. Quando entriamo nell'accampamento i ragazzi ci guardano stupefatti. Quando è che ce ne eravamo andati? Di piena notte, mente il sergente. Ma nessuna sentinella ci ha visto, per cui vi consiglio di montare la guardia un po' meglio, altrimenti porteranno via il campo intero, i fucili, la bandiera, tutto. Poi li fa mettere in fila e chiede se hanno notato nulla di sospetto. Nessuno risponde. Io osservo Zeta. Non batte ciglio. Che cosa c'è scritto nella lettera? È nella sua tasca ora. Ma io la leggerò. La devo leggere. Devo chiederla a lui direttamente? No, no, sarebbe assurdo. Negherebbe. La brucerebbe e io non potrei leggerne il contenuto. E se l'avesse già distrutta? E il messo? Chi era? Un ragazzo che si presenta alle 2 del mattino... A 2 ore di strada dal villaggio? O abita nella fattoria della vecchia cieca? Mi pare sempre più probabile che faccia parte della banda dei masnadieri. Gramigna, anche lui. Anche Zeta è gramigna. Devo leggere la lettera. Lo devo, lo devo. Questa lettera sta diventando un'ossessione. Boom! Sparano oggi per la prima volta. Boom, boom! Nel pomeriggio R viene da me. Signor professore, vorrei cambiare tenda. I due coi quali dormo non fanno che picchiarsi. Non posso chiudere occhio. Chi sono? Zeta e N. Zeta? Sì, ma è sempre N che comincia. Mandali qui, tutti e due. Viene N. Perché ti picchi con Zeta? Perché non mi lascia dormire. Mi sveglia continuamente. Accende la candela in piena notte. Perché? Per scrivere delle idiozie. Scrive? Sì. E che cosa scrive? Lettere? No, il suo diario. Un diario? Sì, è uno sciocco. Scrivere un diario non vuol sempre dire essere sciocchi. N mi lancia uno sguardo di disprezzo. Scrivere il proprio diario è la manifestazione caratteristica della sopravvalutazione dell'io, dice. Possibile, rispondo prudentemente, non riuscendo per il momento a ricordare se quella bestialità è stata detta alla radio. Zeta si è portato dietro una cassetta per chiuderci dentro il diario. Mandami Zeta. N se ne va e viene Zeta. Perché ti picchi con N? Perché è un plebeo. Ho un sussulto. Mio malgrado, penso ai ricchi plebei. Sì, prosegue Zeta. Non può sopportare che si rifletta su di sé. La cosa lo manda in bestia. Io scrivo un diario e lo chiudo in una cassettina. Ebbene, ultimamente ha voluto farlo a pezzi, per cui sono costretto a nasconderlo. di giorno nel mio sacco, di notte a letto con me. Lo guardo e gli chiedo: «E dove lo metti quando monti la guardia?» Il suo volto è immobile. «Nel sacco», risponde. «E nel diario scrivi tutto quello che ti succede?» «Sì». «Quello che senti, quello che vedi, tutto?» Arrossisce. «Sì», risponde a bassa voce. «Ora devo chiedergli chi gli ha scritto la lettera e che cosa conteneva?» «No, lo leggerò nel suo diario». Z se ne va e io lo accompagno con lo sguardo. «Riflette su se stesso», mi ha detto. «Leggerò i suoi pensieri. Il diario di Z». Marco Foschi ha letto Gioventù senza Dio di Eugen von Horvath, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Amorese. Per riascoltare il programma radio3.rai.it. Per scaricarlo raiplayradio.it. Ad alta voce è un programma Rai, Radio 3.